Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale questa del cacciatore di libri, perché andiamo in onda da Torino, dal Salone del Libro, dove si trovano gli studi di Radio 24, e siamo in compagnia di Serena Dandini per parlare del suo nuovo libro, che si intitola Grazie per quella volta, pubblicato da Rizzoli. Questo sembra essere un po' il periodo in cui persone che facevano un altro mestiere, presentatori, cantanti, penso a Ligabue, penso a Guccini, ma mi viene in mente anche il giornalista Gramellini, si stanno dando alla narrativa. Insomma, non è che raccontano solo la loro vita da professionisti, ma si danno proprio alla narrativa pura. Nel tuo caso, perché hai deciso di scrivere un libro di racconti? Intanto pensa a Beppe Grillo. No, se vogliamo per dire, no, che è il momento che si cambiano le professioni, per dire. Ma non sono dei veri e propri racconti. In realtà il sottotitolo che gentilmente hai omesso per pietà recita Confessioni di una donna difettosa. E quindi più che racconti sono così delle confessioni personali, ma con così l'ambizione di far in qualche modo coinvolgere persone che hanno gli stessi difetti, appunto a proposito di difetti. Sono a metà tra racconti e autobiografia, memoir, ironic, serio, è un mischio di stile non ancora catalogato che mi è scaturito, quindi non so perché proprio adesso tutti quelli che fanno altri lavori si mettono a scrivere, che c'è pure la crisi della letteratura, gli scrittori ci odiano, però succede, anche perché io ho sempre scritto, questa mia giustificazione, posso almeno vantare questa carta, e quindi per me è abbastanza naturale. Certo, il passaggio così più tra virgolettissime letterario è un passo, è un salto che faccio in punta di piedi, e devo dire che il precedente libro probabilmente mi ha fatto capire quanto è bello questo rapporto intimo diverso col pubblico, come abituato ad avere un rapporto molto più oceanico, plateale, schiassoso. Invece questo è un rapporto molto intimo. Ecco, il libro sicuramente è un rapporto molto intimo, ma nel momento in cui hai scritto queste storie, che appunto sono per la maggior parte storie vere, a chi ti sei rivolta? Come ti sei immaginata il tuo lettore? Tu sei un personaggio pubblico, vai in televisione, parli di te, ma parli anche di altri. Il libro appunto è più intimo. No, in televisione non parlo mai di me, anzi ho una pruderia rispetto, infatti sono meravigliata. Da me però stessa. Non è la prima intervista, insomma si parla di te. Sì, però diciamo che di solito sono io che intervisto, per cui mettermi dall'altra parte è abbastanza strano per me. L'esigenza, beh, è stato un po' che il libro è scaturito, sai, i libri, le cose scaturiscono, quindi è difficile spiegarti come. Un po' è stato il momento di stop and go con la Rai, quella nera pagina televisiva che ci ha in qualche modo fatto scegliere, no, un tubo fatto scegliere, ci hanno proprio cacciato via ogni diplomatismo. E quindi in quel momento io combattevo di giorno per il mio gruppo, e poi la sera venivo a casa e mi piaceva, capito? Era come una specie di così sfogo meraviglioso. E poi è successo un altro episodio personale, è morta una mia zia che era appunto una colonna portante della famiglia a 92 anni, quindi una morte chiaramente non era giovane, diciamo, uno se lo aspettava, però sai, anzi più vecchi sono e più pensi che sono eterni, per cui a me è rimasta comunque una impressione che dovevo in qualche modo ricordarla, e infatti è dedicato a lei il libro, e c'è un capitolo che si chiama La zia. Siccome è stata una donna per i suoi tempi e la sua generazione straordinaria, che, di quelle donne che ti aiutano a credere che si può fare una vita diversa da quella che ci avevano prospettato, gli volevo rendere omaggio, e allora così è nato anche. In questo sei identica in tutto e per tutto agli scrittori, perché i libri scaturiscono sempre in genere da un dolore o da una difficoltà, nel tuo caso appunto la morte della zia, e poi anche mamma Rai che ti aveva abbandonata, ti ha abbandonata. Sedotta e abbandonata. Sì, un abbandono che poi però voglio dire abbiamo compensato benissimo con un nuovo fidanzato che è la Sette, che sono fantastici e ci danno una grande libertà, e quindi ci hanno dato la possibilità di lavorare. Ho portato tutto il mio gruppo che stava in questo guado, per cui come si dice appunto, dalla crisi nasce sempre un'opportunità. E quindi sono grata a mamma Rai perché mi ha permesso di scrivere questo libro che mai avrei pensato. E poi la cosa molto interessante è che era un po' una liberazione per me, interessante per me, spero anche per il pubblico, ma mi sembra che ci sia una bella risposta, e una liberazione totale da una serie di schemi imposti, di autofrustrazioni che ci imponiamo perché la società ci vuole sempre belli, sempre giovani, sempre pimpanti, sempre vincenti, specialmente alle donne, sempre sexy, non se ne può più, no? E quindi basta, era un basta detto per tutti e anche per le giovani generazioni di non seguire questi schemi che creano grandi frustrazioni e poi non portano alla felicità che sta in tutte altre cose. E quindi era un po' liberiamoci, quindi esaltiamo i nostri piccoli difetti e vogliamoci bene, insomma. A proposito dell'immagine della donna, c'è un racconto che è dedicato all'immagine che della donna viene data nella pubblicità, che è insomma abbastanza particolare. Che cosa hai voluto raccontare? No, c'è un capitolo sull'autostima, che diciamo in genere l'autostima bassa ce l'hanno un po' tutti, ma le donne in particolare sembrano, nascono, almeno io sono nata con un'autostima azzerata, probabilmente è come se quando metti il fiocco rosa sulla culla, zac! Distruggi l'autostima subito, e quindi c'è tutto un discorso su come da sin da piccoli segni, no? non ci aiutano la società, diciamo in genere, sia dal punto di vista poi personale, la famiglia, e gli spot pubblicitari sono lo specchio di questo minare, diciamo, la stima che possiamo, ci sentiamo sempre inadeguate, insicure, non all'altezza, figuriamoci se la pubblicità ci dipinge come delle donne che perdono liquidi a ogni istante, a ogni minuto del giorno, del mese, non c'era più l'intervallo tra un mese e l'altro, un ciclo e l'altro, i giorni, in quei giorni, in quegli altri giorni, cataclismi se non si comprano questi prodotti, fino ad arrivare all'orrore che secondo me è quella della pubblicità in ascensore, che appunto nel libro faccio questa specie di crescendo, lì proprio non si capisce perché questa povera donna gli scappa sta pipì giovane e piacente, cosa che può succedere a tutti, uomini, donne, cani, cioè non vedo perché deve essere una donna protagonista di questo spot con tutti scandalizzati che si toccano anche il naso, che si dice male odore, cioè una cosa orribile. Infatti io quando poi questa cosa la racconto, tutti quelli che leggono questa cosa dicono sì è vero, ma perché? Bisogna fare una class action, una causa contro queste multinazionali che minano l'immagine della donna totalmente. Ma perché? Pensa, immagina ci fosse un uomo protagonista, non sarebbe possibile. No, solo noi donne. L'altra che purtroppo è uscita dopo, non l'ho potuta mettere, dice mamma c'ho un prurito, non so se l'avete, che è una roba. Pensa a un ragazzino che dice papà, ho un prurito intimo, non è concepibile, capisci? Allora, riflettere anche su questo, sì. A proposito di pubblicità, è vero che ti commuove la pubblicità dove c'è il granellino di polvere impersonato da una persona che va via? No, più che una persona è proprio la polvere. È vero, il granellino, sì hai ragione, è un'enorme che... cioè non mi dire che hai pianto su questo. Però mi commuove perché, non lo so, mi ricorda, è veramente terra terra, hai scelto, ti ringrazio, uno degli esempi. Però siccome anche questa cosa di commuoversi, voglio sdoganare anche la possibilità di piangere e rimanere lo stesso delle persone professionali, quando il momento, invece sembra che no, che per essere... già essere dure come gli uomini, beh, invece no, si piange, anche gli uomini adesso poi piangono, per cui capito, secondo me cambiano tante cose. Beh, adesso la polvere fa ridere i polli un po', non solo me, però è quella pubblicità dove quella viene cacciata perché questa sua padroncina decide di lavorare la casa linda e pinta, e si vede questo grumo di polvere con la valigetta, una scena un po' alla Charlie Chaplin che va via così nel lontano e fa commuove, diciamo. Ognuno c'ha le sue, insomma. Diciamo che nel libro ce ne sono anche altre, non è proprio il centro, però è un sintomo. Ecco, in questo libro tu dici anche, elenchi un po' le cose che ti danno allegria e quelle che ti danno tristezza. Una l'abbiamo detta, di quelle che dà tristezza, invece che cosa ti dà allegria? Più che tristezza è questa tristezza, che io dico che è come un sentimento di serie, una malinconia di serie B, che non è come la malinconia o la saudage che hanno ispirato grandi poeti e grandi canzoni. La tristezza è una roba piccola che non cambia i destini del mondo, però ti fa diventare di cattivo umore durante la giornata, e anche quello però conta. Spesso si uccide per tristezza, non io naturalmente. E invece cosa mi mette allegria? Ma un sacco di cose: mangiare, bere, stare con gli amici, essere me stessa più possibile, cercare di Vivere armoniosamente con le persone a cui voglio bene. Magna, tra l'altro, era il primo consiglio che ti aveva dato tuo papà. Diciamo, la prima parola che io ricordo, sì. Tra me di questo libro ormai ho raccontato delle cose, per cui per essere all'altezza devo continuare, vedi, a mangiare. Qui stiamo parlando davanti a un tavolo imbandito, adesso più o meno mi ricovereranno. Perché... Ma qui al Salone del Libro bisogna mangiare perché altrimenti, insomma, non abbiamo energie tali da reggere questi ritmi. Ti vedo bella provata, però reggi, eh? Con lo zainetto 24 ore su 24, complimenti. Grazie a Serena Dandini, autrice di Grazie per quella volta, pubblicato da Rizzoli. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.